Inizio con due premesse. La prima, credo che ho scritto un libro sulla danza e il corpo nella Bibbia, che è pubblicato dalle edizioni dell'Immacolata e che potete trovare in fondo. No? In questo libro c'è, in forma molto semplice, quello che io tratterò per voi, soprattutto per quanto riguarda il corpo. Quando con Elisa ci siamo viste e volevamo vedere un corso di danza, io ho detto subito: non possiamo fare un corso di danza se non si entra in una visione corretta della danza. Perché noi abbiamo un'idea vaga di danza, no? Pensiamo danza come divertimento, danza come guarigione o liberazione o cose strane. Ecco, io propongo una danza aderente al testo biblico, quindi quello che io faccio è propriamente danza biblica, in relazione con quello che io ho potuto imparare della mia conoscenza e amicizia del popolo ebraico. Quindi è un po' frutto di una vita trascorsa nella conoscenza e nella vicinanza di questa cultura, una profonda conoscenza anche della religione cattolica, ecco. E poi a questo, con questo, ho unito l'arte della danza. Quindi è chiaro che quando si parla di danza come arte, noi già abbiamo un altro livello, no? Rispetto al divertimento, eccetera. Quello che io faccio è danza popolare, quindi danza di un popolo, espressione culturale di una entità etnica. Okay? Entità etnica che è anche religiosa, perché il mondo ebraico, sapete tutti, ha come sostrato culturale la Bibbia, per cui quando noi parliamo di danza ebraica, è quelle proprio più aderenti alla tradizione ebraica, è sicuramente danza biblica, cioè aderente al testo biblico. Io mi sono ritrovata a fare queste danze con ebrei o anche delle volte in associazioni di danze popolari con i cristiani, però dicevo, queste persone danzano, è bellissimo, si divertono ed è bello, questo, non c'è niente di male a divertirsi, però sì, mi sono chiesta se questa gente comprendesse che cosa danza, forse danzerebbe con una coscienza diversa, no? Danzerebbe con la coscienza che quello che si danza è un testo biblico e con la coscienza che il corpo può esprimere una parola, in questo caso la parola di Dio. Quindi il corpo è un linguaggio per mettere in atto la parola di Dio. Ecco, questa è un po' la visione che io ho avuto. Quindi vi farò danzare, ma vi farò danzare in aderenza al testo biblico, in modo che prendiamo sempre più coscienza che il corpo è un linguaggio dello spirito. Non è soltanto un linguaggio per il divertimento o per creare relazioni, che comunque positive o negative, come volete, ma è un linguaggio dello spirito. E nella mia ricerca biblica a contatto con il mondo ebraico, ho scoperto che la danza è il linguaggio dello spirito. Poi, nella nostra tradizione, non è colpa della tradizione, è colpa proprio dell'umanità, siamo molto bravi a rovinare i doni di Dio, no? E a trasformarli come vogliamo noi. E quindi questo grande dono che è il corpo e la danza, nei popoli primitivi, è la prima forma di preghiera. Se voi, io sono insegnante in religione, qua dentro c'è qualcuno, le prime cose che si insegnano ai bambini, l'uomo primitivo danzava pregava con la danza, con il corpo. Quindi è il linguaggio della preghiera. Solo che poi pian piano noi ne abbiamo fatto un'arte profana, fino a diventare anche forma di commercio. Il problema qual è? Non è la danza, è il corpo. È come noi comprendiamo, come noi vediamo il corpo. Allora, ho detto a Elisa, prima di iniziare a fare danza biblica, certo, diventa testo biblico, quindi movimenti corretti, ci posizioniamo, ci correggiamo in aderenza al testo biblico, ho fatto anche questo tipo di ricerca nelle diverse danze tradizionali ebraiche, ma parliamo del corpo prima. È molto riduttivo parlare in un'ora di tutta la mole che c'è nella riflessione del corpo. Però ecco, io ho cercato di fare una piccola sintesi non di teologia del corpo, ma di una certa teologia del corpo che ho creato io in relazione e in combinazione con delle nozioni di cultura ebraica che io conosco, relative al corpo. Okay. Quindi iniziamo adesso un percorso che potrebbe essere un percorso molto profondo, spirituale, sviluppato in 4 punti, ve lo dico, però purtroppo devo andare molto di corsa, quindi lo svantaggio è che voi dovete, cioè sarete riempiti di tanti contenuti a livello di Bibbia, di Vangelo, di salti di qua e di là, anche un po' di filosofia, che magari, ecco, se uno si fa prima un corso di teologia del corpo, si va a vedere un po', si studiare, poi si cerca qualche corrispondenza col mondo ebraico, magari queste cose, però non c'è tempo, quindi io vi dono tutto quello che io ho potuto realizzare studiando un po' questo grande panorama e organizzandolo secondo una mia visione. Vedete, il titolo è Per una teologia del corpo, cioè una strada di fare una teologia, cioè uno studio aderente a quello che è il pensiero teologico sulla realtà del corpo. E guardate che io ho scoperto che c'è un'urgenza di parlare di questo tema del corpo in generale, ma applicato alla teologia e al culto cristiano, molto forte, perché il culto, io studio liturgia, il culto e la liturgia è tutto corpo, ma noi non l'abbiamo fatto tutta mente, sempre siamo lì, no? Perché il corpo è stato sempre oggetto di ambiguità, e difatti il corpo è qualcosa di ambiguo. Se la danza, come scrivo nel libro, no, i primi secoli del cristianesimo è stata, perché c'era nel culto cristiano anche la danza, come espressione di preghiera, ma verso il IV secolo ci sono sorti i primi divieti alla danza nel culto pubblico, è perché è cominciato, i vescovi, nella loro grande saggezza, hanno cominciato a vedere che forse questo linguaggio del corpo non trasmetteva più qualcosa di spirituale. C'era una certa capacità di vedere il corpo in movimento che danza, distorto, cominciava ad essere distorto da una visione spirituale. Che cosa è successo? E abbiamo cominciato a concepire, a focalizzare l'ambiguità del corpo, che comunque è un linguaggio ambiguo, lo vedremo, ma traviando quello che è un concetto, una realtà dello spirito in un concetto, facendo in modo di vedere nel corpo qualcosa che io ho, e invece il corpo non è qualcosa che io ho, ma è qualcosa che io sono. E la fede cristiana ci dovrebbe aiutare in questo, è la realizzazione, l'esaltazione di questo, perché quando diciamo che il verbo si è fatto carne, diciamo che la parola è diventata corpo, e quindi diciamo che in realtà il corpo non è uno strumento per pregare, no, diciamo che il corpo è la preghiera. Il corpo è la preghiera, e ci siamo molto lontani. Sembra una cosa semplice, una cosa elementare, una cosa che i primitivi avevano capito, e noi invece ci siamo molto allontanati da questa cosa. Il corpo è il linguaggio di culto. Allora, questo mio intervento, 4 punti importanti, un po' in generale sul corpo: il corpo come libertà, il corpo come azione sacra, come santificazione, perché io credo che c'è una santificazione dell'uomo che passa attraverso il corpo. Allora, il primo concetto è questo, che il corpo è un luogo di contraddizione. Perché? Perché se pensiamo, in effetti c'è un'ambiguità nel linguaggio del corpo. Vi dicevo, questi vescovi hanno dato un divieto. Perché? Perché se uno parla e dice un concetto su Dio, poi si accorge che la gente capisce male, con la parola ci puoi ritornare sopra, lo puoi aggiustare il discorso e ti puoi correggere. Ma il corpo è un linguaggio talmente tanto immediato e talmente tanto incisivo che tu non ci puoi ritornare sopra. Un atteggiamento del corpo è immediato, si capisce subito. Se una persona recepisce delle cose o come interpreta attraverso il movimento una parola. Quindi la persona che si muove si vede. C'è qualcuno qui mi ha detto: ti ho visto danzare, che bello. Si vede quando una persona si muove per dare gloria a Dio e quando una persona si muove per fingere, perché altrimenti no? Si vede quando uno fa teatro e quando uno è autentico. Il corpo questa cosa lo fa vedere. Gli attori studiano proprio eliminare questa immediatezza del corpo. Studiano come eliminare questa immediatezza. Ma chi non ci studia sopra e chi non impara questa roba, è molto difficile far capire un messaggio e invece no, ne vivi un altro. No? Il corpo è qualcosa di immediato. Quindi questi vescovi hanno realizzato questa ambiguità che il corpo porta. Quindi nel corpo si intrecciano, come vedete scritto, la dimensione spirituale e quella tangibile. Cioè c'è nel corpo qualcosa c'è una dimensione che io tocco, ma c'è anche qualcosa che io vivo e passa attraverso quello che io manifesto, no? Quindi il corpo rende visibile ciò che non è visibile e quindi tutto quello che tu porti dentro lo rende visibile, non c'è filtro in questo. Però è vero anche che l'uomo deve imparare a non assolutizzare il corpo. Oggi noi viviamo in una cultura in cui il corpo in un certo senso è molto valorizzato, perché ne abbiamo fatto un po' una specie di idolo. Quindi l'assolutizzare il corpo è un po' anche un rischio. Quindi per farvi capire un po' l'ambiguità, è vero che il corpo è un linguaggio che esterna quello che noi viviamo dentro, ma è vero anche che bisogna stare attenti a non valorizzare una persona totalmente dal proprio corpo e dal proprio esteriore, no? Perché questo può generare una visione falsata della propria identità. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo valorizzato talmente tanto il corpo che noi pensiamo che col corpo noi possiamo incidere in qualche modo, no? Nella società, nel mondo. E anche sul nostro corpo, vedete, per esempio i giovani, no, si fanno i piercing, i tatuaggi, è un modo di incidere nel proprio corpo un certo malessere, una certa fase della vita. Però è importante, perché noi pensiamo che col corpo noi ci possiamo realizzare. Anche questa è una menzogna, perché uno non si valorizza perché ha un bel corpo, no? C'è molto di più. Ma tutto questo è nel corpo. Questa è una visione falsata del corpo, ma il corpo in realtà è molto di più della visione esterna che noi abbiamo. E questo è meraviglioso, perché nel corpo noi abbiamo il senso della nostra vita. Se noi ci lasciamo... Lasciamo che il nostro corpo ci insegni, in realtà noi troviamo che nel nostro corpo, già pensiamo quando nasciamo, il corpo di un bambino, il corpo di un bambino già nel suo corpo contiene il progetto della sua vita. Innanzitutto ci dice che il corpo è fatto per relazionarsi a qualcun altro. Il bambino non può vivere se non si relaziona alla mamma. Quindi è chiaro che il corpo di per sé indica una relazionalità. Siamo fatti per la relazione, per un altro, per stare con un altro. Nel corpo del bambino c'è già questo progetto di Dio, che questo bambino si realizzerà nell'incontro con un altro. Quindi pensate che nel corpo noi abbiamo iscritto dentro il senso della nostra vita. che è il dono di noi stessi. Ecco perché da questo si può partire per creare una teologia del corpo. Perché? Perché come il massimo dono che c'è stato, proprio nella, almeno i cristiani ci credono, è il dono del corpo di Cristo sulla croce. E noi, come senso ultimo della nostra esistenza, abbiamo il dono totale di noi stessi. Guardate, questo non è una cosa che chissà che, cioè si compie nell'unione sponsale. Quando un uomo e una donna si amano, i loro corpi si uniscono. Questo è il grande mistero dell'amore completo, totale, donato che Cristo ha dato sulla croce. Non lo dico io, lo dice San Paolo, che dice questo è un mistero grande. Cristo ha dato tutto se stesso alla Chiesa, a tutti noi. L'uomo dona tutto se stesso alla donna, la donna dona tutta se stessa all'uomo, nel rapporto dei corpi. Quindi è qualcosa di molto profondo il linguaggio del corpo, anche se vi va, anche Giovanni Paolo II ha parlato molto di questo aspetto, ma ci sono anche tanti autori meravigliosi che ne parlano. Veniamo, questa c'è cioè tutta, anzi, una scuola filosofica sul corpo, cioè proprio in sintesi. Veniamo al linguaggio biblico. Nel linguaggio biblico il corpo assume due connotazioni. Viene identificato come carne, in ebraico basar, che è la dimensione mortale, no? Quella del corpo che finisce, che muore. La condizione di fragilità dell'uomo. E poi invece c'è il corpo, quello che in greco viene tradotto come soma, il corpo, e in ebraico si dicono tanti altri elementi, tanti altri termini, poi lo vedremo, che diciamo sempre viene tradotto come soma perché è una realtà, generale, generica. Quando si dice corpo, si dice una realtà generica per indicare tutta la persona, okay? Per esempio nel Vangelo, quando Gesù dice questo è il mio corpo, interessante perché non è che dice questa è il mio dono, no, questo è il mio corpo, viene indicato col termine soma, cioè con questo termine, una realtà generica, una realtà generica fatta di tutta una vita di una persona, non è soltanto la parte che muore, ma è tutta la vita, da quando uno nasce a quando uno muore, tutto me stesso, tutti i sentimenti, tutto quello che ho dentro, tutto quello che ho vissuto, che il mio corpo porta, questa è un'altra cosa che vi dico così, ma nel libro anche lo dico, porta tutti i segni della nostra storia. Per cui quando dico corpo, quando la Bibbia dice soma, corpo, indica anche questo, no? Tutta la realtà vissuta, tutto ciò che io porto, tutto ciò che io sono. Ecco perché ho detto che il corpo non è che io ce l'ho, io sono questa realtà, io sono il mio corpo. E il corpo quindi, sia nella realtà più fragile, San Paolo molto spesso dice, no? Usa questo termine per dire la realtà del corpo, una realtà fragile, tradotta in greco come sarx, in italiano carne, in realtà è la realtà corporea, no? Quella però che è segnata dalla nostra fragilità. Questa realtà è quella generica, che indica la nostra persona, sia che sia la carne mortale, sia che sia il corpo che indica anche in sé qualcosa di vivente, queste due valenze comunque sono il luogo di incontro con Dio. Nel cristianesimo ancora di più, perché Giovanni nel prologo del Vangelo ci dice che il Verbo si è fatto carne. Carne qui è indicato come sax, cioè quella parte fragile, mortale, quella che noi abbiamo, che sperimenta le nostre debolezze. Il verbo si è fatto questo. Quindi Gesù dona se stesso, tutta la sua storia, tutto il suo essere, ma il verbo di Dio viene ad abitare la nostra fragilità. Quindi questa realtà così complessa, così ambigua, abbiamo visto, ma che anche la Bibbia mantiene questa ambiguità, mortale, diciamo il termine forte, peccatrice, no? Comunque che mostra delle fragilità, questa realtà un po' ombrata, e la realtà più bella, quella che mostra tutta la bellezza della nostra vita, comunque sia, è il luogo di incontro con Dio. Questa cosa vi dicevo che c'è nella realtà cristiana, ma c'è anche nella realtà ebraica. Gli ebrei, alcuni rabbini, una scuola rabbina, sapete, gli ebrei, il mondo ebraico è un mondo ebraico, ci sono tantissime interpretazioni su una parola, c'è un'interpretazione e il contrario di quella. Beh, nel mondo ebraico c'è tutto, perché non è come, non dobbiamo pensarlo come un mondo cristiano e cattolico ancora peggio, dove c'è un magistero che ti dice questo è giusto, questo è sbagliato. Il mondo ebraico c'è tutta la vastità, anzi dicono più, no? Interpretazioni ci sono su una realtà, una parola della Bibbia, e più significa che quella parola è significativa per più persone, quindi è più vera. Perché? Perché ci si può parlare sopra, perché ci sono diverse realtà, diverse verità, è tutto così. Quindi questa è una visione del corpo, che però riprende anche il Vangelo, e riprende Giovanni in particolare e Paolo. Perché qui, no, gli ebrei, questa scuola un po' rabbinica, afferma che il corpo è come un tempio. Quindi, corpo e tempio, anche questa è una roba profonda, corpo e tempio sono in una grande relazione tra di loro. Questa è un po' la linea che sposa anche Paolo e Giovanni, quindi il Nuovo Testamento. Da come lo vediamo? Alcuni testi del Nuovo Testamento. Potete segnarvi questa di Giovanni 2, Gesù risponde e dice: distruggete il tempio, io lo ricostruisco in 3 giorni. Tutti a prenderlo in giro, ci sono voluti 50 anni per costruire il tempio, adesso arriva lui con 3 giorni. Giovanni dice: Gesù parlava del tempio del suo corpo. Quindi questo ci fa capire che Giovanni sposa questa linea di interpretazione, corpo e tempio la stessa cosa. Anche Paolo, vi dicevo, prima lettera ai Corinzi, dice: voi siete, no, il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, quindi Dio, il tempio di Dio è il vostro corpo. C'è questa scuola spirituale. Allora, io qui ho fatto un po' la storia del tempio, lo dico proprio in breve perché qui salto, perché altrimenti non ce la facciamo. E il tempio, interessante questo accostamento col tempio, perché ve lo dico in breve? Perché il tempio ebraico è stato distrutto 2 volte durante la storia del popolo, e non si vedono, e il tempio ebraico è stato distrutto 2 volte, uno una prima volta dai babilonesi, ricostruito dopo l'esilio in Babilonia, e poi è stato costruito il primo da Salomone, poi i babilonesi distruggono, e poi ricostruito dopo l'esilio. Quindi il primo tempio costruito da Salomone, figlio di Davide, il re Davide voleva costruire una casa a Dio, e io so questo, il profeta va e gli dice: tu vuoi costruire una casa a Dio? Ecco, Dio dice: io costruisco una casa a te, ti darò una discendenza che non morirà mai, ma il tempio non lo costruisci tu, lo costruirà suo figlio Salomone. Quindi Salomone costruisce il tempio, arrivano i babilonesi, lo distruggono, prima distruzione, esilio in Babilonia del popolo, ricostruiscono il tempio dopo perché miracolosamente un re persiano, i babilonesi vengono assaliti dai persiani, miracolosamente il re Ciro persiano dice: ma facciamo rientrare in patria gli ebrei, e quindi quando rientrano in patria il tempio viene ricostruito, sovvenzionato dai persiani. Cosa significa questo? Il tempio aveva vissuto tutta una storia, aveva vissuto anche la distruzione e la riedificazione per ben 2 volte, questo accostamento tra corpo e tempio è interessante, perché anche il corpo nella vita può subire tanti traumi o tanti dolori o essere ricostruito, riabbattuto, rimesso in piedi. C'è tutta una storia di quel tempio e quindi anche il corpo, con tutta la sua storia, con tutto il suo vissuto, comunque resta presenza di Dio e resta il luogo in cui dare culto a Dio, il luogo in cui Dio abita. Interessante. Pietro ci dice che noi siamo le pietre vive del tempio. Interessante questa visione cristiana, perché non è solo io che sono tempio di Dio, ma noi siamo tempio di Dio. Si va avanti con questa visione. Questa è un'altra citazione. Voi siete il corpo, no? Essendo come il corpo ha molte membra, così noi siamo uno in Cristo Gesù. Un'altra citazione potete segnarvi. Quindi dicevamo che Gesù, il cristianesimo, prende questa linea: il corpo è il tempio, ma il tempio è stato distrutto, non c'è più. Dopo Gesù, 60 anni dopo Gesù, l'imperatore romano va, distrugge tutto, adesso non c'è più il tempio. Allora la linea profetica ha detto: il tempio è il corpo, cioè il luogo dove dare culto a Dio non è più il tempio, è il corpo dell'uomo. Questa cosa la riprende Gesù profeticamente, la riprende anche Gesù. Gesù un giorno incontra una samaritana, la samaritana gli dice tutto un dialogo particolare, lei era in ricerca, no? E lui cerca di rivelargli la sua identità nel dialogo, verso la fine del dialogo, in cui questa donna fa tutto un cammino, un percorso della sua vita e della sua esistenza, andatevelo a leggere, bellissimo, Giovanni 2, e alla fine lei gli fa una domanda a Gesù, strana, perché era una donna un po' particolare, non era una donna che stava nei ranghi, no, della religiosità perfetta, già era samaritana, era un po' eretica, poi aveva avuto delle diverse relazioni con diversi amanti e quindi questo all'epoca faceva una grande scalpore. E cosa significa? Che questa donna a un certo punto gli fa una domanda su Dio. Interessante, una donna che era considerata eretica, lontana da Dio, in realtà la sua vera domanda era su Dio, e gli dice: ma dove dobbiamo adorare Dio? Tu sei un profeta, diccelo, no? Dove dobbiamo adorare Dio? Sul monte, perché loro pensavano che Dio era sul monte, o al Tempio di Gerusalemme, vedete l'accostamento tempio-corpo, o al Tempio di Gerusalemme. Gesù gli risponde e gli dice: verranno dei giorni in cui né sul monte né nel tempio si adorerà Dio, perché Dio si adora in spirito e verità. Cosa significa spirito e verità? Lo spirito è ciò che anima, ciò che dà la vita, il soffio di Dio. In ebraico, in ebraico si dice ruach, significa il soffio divino. Alla creazione Dio plasma l'uomo dalla terra, soffia e l'uomo vive. È il respiro che dà vita a tutto. Dicevo che corpo, in greco si dice soma, quella realtà di corpo, soma, in ebraico si dice nefesh, che non si può tradurre con corpo, si traduce con, proprio se vogliamo, essere vivente, essere vivo, qualcosa che riceve un soffio di vita, un essere vivente, nefesh. E poi in greco viene tradotto un po' come corpo, un po' come anima, anima. Quando noi troviamo nella Bibbia anima, in realtà quella parola non è anima, perché in ebraico i termini astratti non esistono, esistono tutti i termini concreti, e i termini concreti sono tutti relativi al corpo, tutti. Anima, giusto così in accenno, è il salmo, no, che dice l'anima mia anela a te, no? Al Dio vivente, quando vedrò il tuo volto, come una cerva, ecco, anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Sappiamo, no? L'anima mia. Quell'anima mia non è anima, è gola. La gola mia anela a te, oh Dio. Pensate, ma che accostamento c'è con l'anima e la gola? C'è, perché nella gola passa il soffio della vita, ed è la parte del corpo che mi rende capace di respirare, e passa il soffio di vita. Quindi è questa parte qui che anela Dio, dove passa il soffio di vita. Se non c'è il soffio di vita, io muoio. Capite? È importante il fatto che i termini astratti non ci sono e sono tutti di corpo. Comunque, il fatto che Gesù dica che un culto a Dio si deve rendere in spirito e verità, significa che il culto a Dio si deve rendere nello spirito, cioè in quella forza, soffio di vita, quella forza che ti fa stare in piedi, ti fa camminare, che ti fa agire, che ti fa muovere. Lo spirito è la forza, il soffio, il respiro che è capace di farti muovere in un po' in relazione al desiderio, diceva Sant'Agostino, io mi muovo perché desidero una cosa. E diceva, poi alla preghiera conclusiva di questa cosa, io metterò un passo di Sant'Agostino che dice: il mio peso è l'amore, perché l'amore mi porta dove Dio mi porta. E il fuoco di Dio mi accende e mi innalza verso l'alto. Se io ardo mi muovo, se io ardo mi muovo, cioè se c'è il fuoco di Dio dentro di me, se c'è lo spirito mi muovo, capite? È questo il principio biblico. D'Agostino sembrava che ha fatto un testo diciamo ispirato, e è un grande santo, ma in realtà è molto biblica questa cosa qui. È il desiderio che spinge l'uomo, e ciò che fa muovere l'uomo è questo soffio di vita che mi porta dove io desidero. Interessante. Quindi questo è lo spirito, il culto a Dio si deve dare in spirito, cioè in questo desiderio, in questa forza, nella coscienza che tu senza Dio non c'è più vita. Spirito e vita, spirito e verità. Verità. Una volta a Gesù gli hanno chiesto: che cos'è la verità? Gesù è stato zitto. Gesù non ha risposto. Perché? Perché si trovava davanti a un uomo romano che sinceramente di andarsi a perdere con queste robe della verità ci si sono persi in tanti. Nel senso che ci sono tante ricerche filosofiche sulla verità. Ma Gesù ci insegna che la verità in realtà è ciò che noi viviamo. È la nostra vita, la verità. La verità è ciò che uno sperimenta con il proprio corpo, con la propria vita. Non puoi dire che una cosa è vera se non hai fatto l'esperienza. O se comunque in qualche modo tu non ti sei sentito nell'esperienza, anche mettendo i panni di un altro, ma in un'esperienza che comunque è umana, che ti collega a una realtà di corpo. Non esiste verità senza corpo, non esiste verità senza esperienza di vita. Senza vita, Gesù voleva dire, il culto si compie nello spirito, cioè nel tuo desiderio verso Dio, ma anche nella verità, cioè in quello che tu vivi, nella tua vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Quindi mettere insieme queste due dimensioni. Non c'è più allora bisogno di un tempio, di un luogo, perché il tuo corpo è il luogo in cui lo spirito riesce a liberare in te la vita, riesce a farti muovere. E la vita, cioè, perché col corpo tu vivi, fai delle relazioni, instauri la tua vita attraverso il corpo. Questo è il corpo. Adesso io qui inizio una seconda parte che ha a che fare con corpo e verità e libertà. Perché? Perché quando uno entra nella realtà della vita del corpo, riesce a trovare la verità. Se non altro perché Gesù diceva la verità, voi conoscerete la verità vi farà liberi. Vi ho detto che verità, Gesù quando diceva verità non diceva i concetti astratti, diceva la vita che ognuno vive. Voi conoscerete il senso della vostra vita, cioè quello che fate, quello che vivete, quello che ogni giorno, no? Vivete, e la verità vi farà liberi, cioè la coscienza di vivere con una realtà che tutti i giorni dobbiamo affrontare e con leggendola in noi stessi, con le nostre difficoltà, con le nostre realtà personali, quindi con il nostro corpo, riusciamo ad arrivare alla libertà. Ma la libertà è anche una conquista, è una conquista a cui bisogna arrivare con l'aiuto di Dio, perché c'è un processo di conoscenza, un processo di presa di coscienza di quello che la vita ci insegna. Allora qui io riporto un passo del Vangelo, riprendo questo cammino da un passo del Vangelo in cui Gesù guarisce un indemoniato. Adesso mi sembra che però Gesù in questo passo del Vangelo, perché prendo questo? Perché ci sono tante manifestazioni di questo indemoniato che fa col suo corpo. Ci sono tante descrizioni nel testo in cui l'evangelista tocca il corpo, cioè tutti i comportamenti deviati nel testo. Adesso non c'è tempo perché poi vorrei soffermarmi più sulla parte della santità che della libertà. Però nel testo l'evangelista dà tanta attenzione a quello che succede al corpo quando il corpo non è libero. Là il Vangelo dice è posseduto da una legione, da demoni, eccetera. C'è l'influenza negativa, però c'è anche dei blocchi che il corpo ha in conseguenza una negatività che vive, che recepisce. Ecco, quindi lì si fa vedere bene questa sofferenza del corpo che è anche dell'anima che viene vissuta col corpo. E si fa vedere bene che quando Gesù arriva, senza giudizio, però con una forte, con una chiara parola, la parola di Gesù fa trasformare questi atteggiamenti in atteggiamenti di dolcezza, di pacatezza, di pace, e il corpo, c'è proprio questo cammino nel corpo che manifesta questa dolcezza, questa tenerezza tra Gesù e questa persona che viene liberata. Perché metto questo? Perché per arrivare alla libertà c'è tutto un cammino che ciascuno di noi deve fare, perché ciascuno di noi ha una visione distorta del corpo, perché la vita, le cose della vita e anche un po' il pensiero che circola ci fa vedere nel corpo, appunto, come vi dicevo, un oggetto. E non realizziamo che invece il corpo siamo noi, è la nostra vita. E quindi in questo noi abbiamo bisogno della parola di Gesù e abbiamo bisogno di fare un cammino, un percorso. Io ho scoperto il percorso della danza perché, detto tra noi, è anche più simpatico, e anche più, vedremo le prossime volte, no? Ma ci fa entrare in relazione immediatamente, ci fa divertire, però è un'esperienza che ci libera piano piano, ci fa comprendere bene che cos'è il nostro corpo, la relazione. Io poi queste robe quando faremo i laboratori ve lo spiegherò, no? La relazione con gli altri, la realtà che c'entra il nostro corpo, no? Poi l'ho associata anche ai libri diversi della Bibbia, quindi faremo il percorso biblico, ma anche esistenziale. Quindi questa realtà che della danza è un mezzo per poter liberare il corpo, per poter liberare il corpo. A cosa serve questa libertà del corpo? Serve perché noi nel corpo portiamo, come vi dicevo, tutta una realtà di vita quotidiana, ma anche di storia passata, che vuoi o non vuoi, il corpo manifesta. Il corpo manifesta. Nel libro, verso l'ultima parte del libro, io porto alcune testimonianze dei laboratori che faccio in alcuni laboratori alcuni mi hanno detto che per esempio non riuscivano a fare dei passi semplici, passi che faccio lo vedrete proprio semplici, però non riuscivano a fare dei passi perché si accorgevano che c'era qualche blocco. Allora facendo quel passo si sono resi conto, ah ma forse non ho vissuto bene quella situazione lì, in quel momento lì, forse ci devo ritornare su, forse lo devo interpretare in modo diverso, forse la interpretavo un po' troppo, no? La sovraccaricavo di quello che era, in realtà no? Si poteva risolvere con molta più... No? Semplicità, ecco, la danza ci aiuta a questo, perché è un percorso del corpo, ci aiuta ad entrare nella realtà di vita, nella verità di quello che siamo, e ci libera piano piano, ci libera, non perché chissà che riusciamo a fare le grandi acrobazie, no, come i grandi ballerini, ma parlavo con dei ballerini che mi dicevano, io so fare tantissime cose acrobatiche, però sento una parte del corpo bloccata. Ma lei mi diceva, io sento questa parte qui del corpo bloccata. E quello significa qualcosa. Io adesso in questo non sono molto preparata, però so che la Bibbia lo dice, c'è qualcosa lì, c'è qualcosa da guarire, da visitare, da vedere. Poi sapete, le culture orientali su questo, no? Hanno forse molta più sapienza di noi, non è che ci dobbiamo chiudere, forse hanno anche intuizioni più alte di noi su questa cosa, perché non hanno perso il contatto col corpo, anche la mistica ebraica ha qualcosa da poterci insegnare su questa realtà un po' più, però sono percorsi, capite, che magari sono anche più alti, ma a livello di quello che io faccio si sperimenta questa cosa qui, poi sarebbe interessante studiarlo, ma per chi può, ma intanto fare l'esperienza è importante, rendersi conto che magari forse il mio corpo manifesta dei blocchi che, no? Ma questo c'è anche danza terapia e altri tipi di percorsi che lo fanno, Allora. Ah, una cosa sola, quando questo indemoniato viene guarito, c'è questo desiderio dell'indemoniato a Gesù e gli dice io voglio seguirti, no? Perché è stato liberato, era pacificato, gli altri della città, capirai, lo tenevano tutti un po' sul mirino, invece Gesù l'aveva guarito, dice io voglio venire dietro di te, tu non hai giudizi su di me, mi hai liberato, mi hai guarito, Gesù gli dice no, tu torna a casa, resta con i tuoi e di anche quello che tu hai sperimentato, quello che tu hai vissuto, E questa cosa qui è in linea molto con una visione del corpo ebraica. Ci sono alcuni rabbini che hanno fatto un po'... Sapete, gli ebrei fanno un po' giochi di parole. Hanno fatto un gioco di parole tra il termine corpo, mortalità del corpo, quindi il termine bazar, con il termine che significa portare un annuncio di gioia, quello che noi potremmo dire evangelizzare, bisser. Bazar bisser, la carne, il corpo, è evangelizzazione, è portare un lieto annuncio, diventa questo quando viene liberato da Dio, no? quando viene riconciliato, ecco, con se stesso in Dio, diventa manifestazione della bellezza di Dio, la carne diventa manifestazione della bellezza di Dio. E infatti, ecco qui entro nella terza parte, in cui il corpo può manifestare questa bellezza, questa grande identità di Dio, questa santità. Lo dice anche la scrittura, glorificate Dio nel vostro corpo, dice San Paolo, glorificate, cioè date gloria a Dio col vostro corpo. È un'esortazione, glorificate Dio col vostro corpo, ma è anche un'affermazione, voi glorificate Dio col vostro corpo. Voi dite mamma mia, ma è così, perché Sant'Ireneo di Lione diceva la gloria di Dio è l'uomo che vive, bellissima questa cosa qui, noi pensiamo chissà che è la gloria di Dio, mamma mia la gloria di Dio, è l'uomo che vive, vivi, no? Cioè sentiti lib- libero, no? Bene con te stesso nella vita che fai. Realizza che sei realizzato che la tua vita è un dono, il tuo corpo è un dono per gli altri. Ed è il primo dono che tu hai ricevuto, quindi è un dono anche per te. Se realizzi questo e lo vivi perfettamente, un corpo che vive è la gloria di Dio. Simpatico questa cosa qui. San Paolo ci diceva infatti che in realtà noi siamo grandi illusi a pensare che noi il corpo è il nostro. In realtà noi non ci apparteniamo. San Paolo dice: guardate che voi appartenete a Cristo. Voi appartenete a Cristo. Per questo diceva: non c'è spazio per voi per il peccato, ma questo lo parlava lui alle chiese che lui ha fondato, persone che lui ha battezzato, no? Però in realtà è la realtà cristiana questa, no? Se ci pensiamo bene, noi apparteniamo a Cristo, siamo cristiani, e poi diciamo: no, ma il corpo ce l'ho io, faccio quello che voglio io, c'è qualcosa che no. Quindi la libertà deve essere sempre relativa a questo, ha a che fare con l'impurità. Impurità è, in realtà, il termine greco, io qui vabbè, ma il termine greco che identifica impurità non è impurità, è disordine, cioè avere tutta una realtà confusionata dentro di noi, che ovviamente se noi non mettiamo ordine nella nostra realtà di vita, chiaro che anche il nostro corpo è tutto disordinato, però se ascoltiamo, come dicevo prima all'inizio, il nostro corpo, guardate che tutti i nostri atteggiamenti e la nostra mente e le nostre azioni si correggono da sole, perché il nostro corpo dentro di noi porta comunque un principio di purezza, perché il corpo è fatto per l'adorazione di Dio. Quindi se noi, come vi dicevo prima, cerchiamo di liberarci piano piano di quei blocchi, di quelle sofferenze, di quelle realtà, no, che incidono nel nostro corpo, e ascoltiamo il nostro corpo nella libertà, nella verità, cioè l'impurità non esiste. È tutto il contrario di quello che ci fanno vedere oggi, no? Mi sembra che l'uomo è fatto solo per depravarsi. No. Se uno ascolta semplicemente la realtà del corpo che ha, e lo vive nella semplicità, nella verità, l'impurità per l'uomo non esiste, perché l'uomo è creato per glorificare Dio. La Genesi dice: Dio fece qualcosa, vuole fare qualcosa per parlare, cioè una realtà, un'identità, per parlare con lui, che gli fosse simile. Facciamo l'uomo a nostra immagine, facciamo l'uomo a nostra immagine, cioè voglio qualcuno che possa parlare con me, relazionarsi con me, Dio. Quindi significa che l'impurità è qualcosa che proprio non esiste nell'orizzonte umano, non dovrebbe. C'è qualcosa che ci sfugge e ci fa percepire che invece noi siamo fatti per altro, ma in realtà siamo fatti per dare gloria a Dio. Anche perché, no? Chi appartiene a Cristo, San Paolo dice bene, no? Si possiede, non si lascia dominare dalle cose che passano, vengono, no? Da storie varie, realtà illogiche, no? L'uomo sa quello che è bene o che è male. Io insegno ai ragazzi a scuola e glielo dico: guardate che voi lo sapete che cosa è bene e che cosa è male, non è che ve lo deve insegnare qualcuno, voi sapete, perché lo sentite dentro quello che è bene e quello che è male. Il problema è che mi piace o non mi piace, oggi siamo tutti su Facebook, mi piace o non mi piace, quello è il punto, no? Delle volte, San Paolo sempre lo dice, tutto è lecito, ma non tutto ti giova, ti fa bene, quindi, e tu lo sai, sotto sotto, noi lo sappiamo. Allora, quindi siamo chiamati alla santità, per cui... perché siamo fatti per questo, adesso ve l'ho detto, non esiste l'impurità, quindi siamo fatti per relazionarci con Dio, siamo fatti per la santità. Però purtroppo c'è tanto che ci distorce, tanto che ci opprime, e quindi abbiamo bisogno di affidarci alla misericordia di Dio. il mio libro Danzare la misericordia, io ho scoperto proprio che la danza è il dono della misericordia di Dio, perché è quel dono che viene nel Vangelo quando il figlio minore che viene a casa, il padre gli fa una festa e c'è la danza. Il figlio maggiore che arriva sente la musica e le danze e si arrabbia. Il padre poi va fuori e dice: ma perché? Ma viene la festa, no? Viene la festa. Il padre va fuori, pensate, e gli dice: ma vieni alla festa. Quindi il padre vuole che per noi vuole una festa dove c'è la danza, perché la danza è l'incontro della misericordia, è il mezzo che ci fa entrare in questa riconciliazione interiore. Questo è un po' quello che ho ideato io, quindi l'uomo porta in sé questo desiderio di eternità, che è un desiderio di bellezza, ci diceva il testo successivo, un testo di Giovanni Paolo II, no? Che richiama Sant'Agostino, che dice, Agostino quando si converte dice: ti ho amato troppo tardi, e chiama Dio bellezza infinita, bello, bellezza infinita, antica e nuova, c'è tutto, una bellezza eterna a Dio. Agostino l'ha scoperta così, la bellezza, dice: io mi perdevo alla bellezza delle creature, ma tu sei la bellezza eterna, la bellezza che non muore mai. Ecco, siamo chiamati a questo, a vivere, a contemplare questa bellezza. Contemplare non è stare così e pensare. Nel mondo ebraico, lo dico, ma penso a tutte le civiltà antiche, anche contemplare significa vedere dentro le cose, ma l'atto della contemplazione nel mondo ebraico è... in una parte del mondo ebraico si fa col corpo. Quando contemplano la realtà di Dio e la grandezza di Dio, la bellezza di Dio, gli ebrei si muovono, e si muovono anche in un modo particolare. Non so se siete mai stati davanti al muro, quello famoso muro del pianto, il muro occidentale del Tempio. Se ci andate, vedete questi. Così almeno andiamo anche in Israele con l'associazione, vedete che ci sono questi ebrei, soprattutto maschi, perché sono quelli che appaiono di più, ma ci sono anche le donne, che le donne ancora peggio magari, perché fanno tutti gli atteggiamenti col corpo un po' strani, anche con le mani. Gli uomini però hanno questo libro in mano e si muovono in un modo, stando in piedi, in un modo particolare, con un movimento che inizia dai piedi per arrivare alla testa. Stando in piedi muovono tutto, si chiama Shokelin questo movimento, e mi ha detto un rabbino, mi ha detto che lo fanno proprio apposta per indicare il movimento di tutte le ossa del corpo, perché sulla Bibbia c'è scritto: tutte le mie ossa dicano gloria a te Signore, tutte le mie ossa. Quindi per far muovere le ossa ti devi comunque muovere. Quindi hanno studiato questo movimento che possa muovere tutte le ossa, cioè tutte le articolazioni, le ginocchia, una cosa di... e viene fuori una specie tipo come latinoamericano statico, cioè tutto si muove. E questo perché? E quello è contemplazione per loro, cioè uno va lì e dice: mamma mia, che cosa strana, ti puoi mettere anche a ridere, ma per loro è la forma massima di preghiera, perché lì tutto il corpo glorifica Dio. E noi ci stiamo un po' lontani da questa cosa. E San Paolo diceva, no, che per la misericordia di Dio, diceva, per la misericordia di Dio offrite i vostri corpi. Il vostro culto spirituale, cioè il vertice massimo della lode a Dio, è offrire i vostri corpi. E Paolo dice: ve lo chiedo per la misericordia di Dio, offrire i vostri corpi, ma non perché chissà che offrire i corpi significa fate quello che fate normalmente, ma lodando Dio. Il culto è espressione di vita, la vita normale. Quindi La Bibbia dimostra che l'amore di Dio vive nel corpo. Qui vi ho messo alcune parti del corpo che nella Bibbia sono molto citate e che indicano qualcosa, capite? Cioè c'è questo linguaggio. Alcune parti del corpo sono simboliche per indicare qualcos'altro. Questo è tipico delle culture antiche, ma è interessante perché c'è una verità, c'è una verità. Il cuore è l'intelligenza e la volontà. Gli occhi sono la vita interiore dell'uomo. Quando Gesù guarisce i ciechi, in realtà dona una vista nuova sulle cose, la guarigione interiore dell'uomo. La bocca, la lingua, le labbra, tutto ciò che ha a che fare con, con l'apparato orale, no? Significa tutto ciò che ci mette in rapporto, in dialogo con Dio. Voi dove trovate la mia bocca, no? Oppure ogni lingua proclami, è il dialogo con Dio. Le orecchie, il discernimento, la comprensione, il discepolato, la fiducia. Un'altra cosa così che vi dico così. Ho letto un libro di una fisioterapista che ha scritto un libro sul corpo, anche rifacendosi alla cultura un po' orientale e un po' ebraica, e diceva che nell'orecchio c'è un po' la forma del piede per gli orientali. Quindi praticamente questo accostamento tra il piede e l'orecchio nel mondo biblico è ripreso in modo eccezionale, perché chi ascolta la parola di Dio si mette in cammino. E questa faceva vedere come il piede e l'orecchio, girati in un certo modo, fanno come una specie di feto di bambino. E infatti, ascoltare la parola e praticarla è l'atteggiamento del figlio. Quindi, vedete quante affinità col corpo, quanti simboli, anche attraverso il corpo, si possono ricavare nella sapienza. Le mani sono il simbolo della forza e della potenza di Dio, sempre nella Bibbia, la tua mano, no, è su di me, è la potenza di Dio, no, è la protezione di Dio, la forza. E i piedi? I piedi che camminano, quando nella Bibbia noi troviamo i piedi che camminano, lo faremo anche nel laboratorio, non è i piedi che camminano, certo, noi nella danza faremo i piedi che camminano, ma significa comportarsi come Dio vuole, comportarsi come la legge di Dio ci indica, come l'orecchio ascolta. C'è una relazione: l'orecchio ascolta la legge di Dio, i piedi camminano sulla legge di Dio. C'è sempre una relazione. Questo noi lo faremo quando faremo il laboratorio. Allora, questi tre elementi nella scrittura sono uniti: il cuore e gli occhi nella sfera del pensiero, la lingua e le orecchie per indicare la comunicazione, le mani e i piedi per indicare l'azione. Questa correlazione è interessante perché, non so se c'è qualcuno che ha studiato teologia, ma è molto in correlazione con l'ecclesiologia. Cioè qui noi capiamo perché San Paolo dice che noi, il nostro corpo è gloria di Dio, ma anche il corpo di tutti edifica la Chiesa. Perché cuore, occhi, pensiero, no? Lingua, orecchie, comunicazione, mani, piedi, azione. Se ci facciamo caso, queste sono le caratteristiche che anche la Chiesa ha ereditato. Quando diciamo che nella Chiesa è come un organismo che ha diversi ministeri, cioè diverse modalità di realizzazione, diciamo così. Quella della comunità, di creare una comunione, quello di annunciare il Vangelo e quello di mettersi a servizio. Eccolo qua. Negli Atti degli Apostoli, come ci viene indicata un po' la Chiesa, ha queste tre funzioni: essere coinonia, cioè comunità, annunciare un kerygma, cioè la salvezza di Gesù, annuncio, kerygma significa, e diaconia, che significa servizio, Allora, cuore e occhi vengono utilizzati nella sfera della coinonia, cioè quando si vuole creare una relazione. Questo poi viene fuori anche nei laboratori. Lingua e orecchie nella dimensione dell'annuncio. Okay? E mani e piedi nella dimensione del servizio. Okay? Tutto, ecco perché vi dicevo che il corpo è culto di Dio, il corpo è la presenza di Dio, perché tutto il corpo, cuore, occhi, lingua, orecchie, mani e piedi, coinonia, kedma, diaconia, si compie nella liturgia. Liturgia significa azione del popolo. Quindi come uno agisce dipende in sostanza da come uno ascolta, da come uno parla e da come uno fa, da quello che realizza. Tutto questo è il corpo, il pensiero è il corpo, la lingua, ciò che diciamo, ciò che ascoltiamo è corpo, ciò che noi realizziamo è corpo. Quindi tutto il corpo è fatto per glorificare Dio. Questo si realizza anche nella Chiesa, cioè nella comunità, ma lo vedremo questo nel laboratorio. Tutti insieme, quando c'è un ascolto comune, quando c'è un messaggio comune e quando c'è un servizio comune, cioè un rendersi conto che c'è un altro, no? E un aiuto comune, tutto questo è la gloria di Dio. È glorificare Dio, è l'uomo che vive. Noi lo faremo in un modo talmente tanto semplice e diciamo anche simpatico, e uno dice mamma mia, tutte queste robe è così semplice. Sì, perché noi abbiamo bisogno di complicare le cose semplici, ma abbiamo bisogno anche di ragionare, di prendere, di cogliere il senso sulle cose che facciamo. Siamo fatti così. Ok. Per concludere, ho messo questa preghiera di Sant'Agostino, che vorrei che adesso la facciamo insieme, perché è una frase che, cioè, è un brano di questo grande santo, lo conoscete tutti, no? Che ha fatto un'esperienza di conversione molto forte in età molto tarda, e non solo è un grande convertito, ma è anche poi un vescovo, è uno dei più grandi santi della storia. E questa frase a me ha parlato molto quando io stavo lavorando un po' sulla danza, sul corpo, perché mi sono resa conto che questo grande padre della Chiesa, alla fine, che poi chissà di filosofia e chi lavora un po' sul corpo, gli hanno dato anche molto addosso, perché lui aveva una visione molto dualistica del corpo, cioè lui ovviamente per la sua esperienza anche personale era entrato in una setta in cui distinguevano molto il corpo dallo spirito. Gli eletti dovevano essere quelli che vivevano solo di spirito, e la dimensione del corpo era materialità, era un po' il mondo greco così. Quindi lui, poverino, nella sua storia ci è entrato dentro a questa setta qui. Poi quando si è convertito al cristianesimo, chiaro che ha scoperto che questa cosa non era una filosofia giusta. Però i retaggi, gli studiosi li hanno colti nei suoi scritti. Eppure, invece, io ho colto una visione corporea molto forte in questo padre della Chiesa. E anche in un altro passo lui dice: che cosa sento quando prego Dio, quando amo Dio? Una sorta di, dice, una specie di piacere, una specie di cosa buona da gustare, una specie di amplesso, una specie, cioè dice diverse cose corporee che lui sente col corpo, però dice una specie, cioè non riesce, nel senso che dice quando tu sperimenti Dio è qualcosa che tu col corpo lo vivi qualcosa col corpo, ma ti rendi conto che è molto di più, quindi lascia aperto questa dimensione più alta. E io ci ho visto abbastanza la componente del corpo anche in alcuni dei suoi testi. E uno è questo, in cui parla proprio del trasporto, del desiderio che muove il corpo e verso la preghiera, verso Dio, è stata la sua esperienza. Però è un'esperienza anche umana, no? Ma un po' anche tutti gli animali vanno dove, dove desiderano, no? Però il desiderio dell'uomo è più alto, no? E Agostino ce lo dice: quando tu veramente ti muovi, quando hai una passione dentro il cuore, quando tu ami, quando tu sei portato dall'amore. Questo è un po' il senso che ho voluto dare alla danza, lui lo dà alla preghiera, e quindi c'è questa visione del corpo, della danza come espressione dello spirito. Lo recitiamo insieme e quindi concludiamo questo incontro. Allora, le cose che non sono nell'ordine sono senza quiete, ordinate acquistano la pace. Il mio peso è l'amore, da lui sono portato ovunque mi muovo. Dal tuo dono siamo infiammati e portati verso l'alto. Ci infiammiamo e così ci muoviamo. Saliamo la salita del cuore cantando. Dal tuo fuoco, dal tuo buon fuoco, siamo infiammati e mossi. Saliamo verso la pace di Gerusalemme. Bene, grazie.